Il punto di Stefano Folli. L'epilogo di questa confusa vicenda è scontato. Letta si dimetterà comunque entro oggi, dopo aver segnato il punto dell'orgoglio con il discorso di ieri e aver imposto a Renzi un prezzo da pagare, perché nella direzione del PD il segretario dovrà essere ancora più esplicito nello spiegare a tutti, soprattutto agli italiani, il motivo politico e di merito per cui è necessario adesso, proprio adesso, cambiare governo e avere un nuovo premier. L'importante è che tutto si concluda però in giornata, prima che gli effetti di questa ennesima lacerazione del PD suscitino un'altra ondata di sconcerto nell'opinione pubblica. Come dice la saggezza popolare, per fare la frittata bisogna rompere le uova. Ora le uova sono rotte da tempo ed è bene che entro stasera Renzi, l'uomo nuovo a cui ci si attende tanto, completi la frittata. Il nuovo governo dovrà nascere molto in fretta ed essere pronto a operare già entro una settimana o poco più. Il compito che avrà di fronte è di quelli che fanno tremare le vene dei polsi.